Meccanica quantistica, relatività, fisica statistica, elettromagnetismo. Come sono state fatte queste scoperte? E poi tutte le curiosità sulla vita di Niels Bohr, di Newton o di Marie Curie. Bisognerebbe intervistare i fisici del passato. Ma queste interviste sono impossibili. No, non esistono interviste impossibili per Radio Mocha. Intervista impossibile a Ludwig Boltzmann. Voci di Giovanna Pacini e Gianluca Martelloni. Buongiorno professor Boltzmann, che piacere averla qui con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Anche per me è un piacere stare in compagnia, anche se avrei preferito fissare l'appuntamento in un buon ristorante. Qui in Toscana non manca certo il cibo e il buon vino. Magari dopo l'intervista andiamo insieme a cena. Ma prima dobbiamo parlare un po' di lei. Vuole raccontarci quando visse e di cosa si occupò? Volentieri. Sono nata a Vienna il 20 febbraio 1844, la notte tra il martedì grasso, fine del carnevale, e il mercoledì delle ceneri, inizio della quaresima, il che spiega il fatto che avessi un umore bipolare. Ho seguito una carriera abbastanza lineare e sono stato professore sia di matematica che di fisica. Devo dire che sono sempre stato piuttosto dotato in campo matematico e anche parecchio affascinato dalle potenzialità deduttive del trattamento analitico, tanto da essere stato definito terrorista algebrico. Esagerazioni? È vero che la mia memoria per i numeri è di solito molto affidabile, ma ho sempre difficoltà a tenere il conto dei bicchieri di birra bevuti. Immagino che i suoi risultati non siano facilmente illustrabili al nostro pubblico. Tutt'altro, sono certo difficili ma non incomprensibili. Il tema principale che ho sempre studiato è come nasce l'irreversibilità dell'universo. Sembra un tema molto importante. Lo è. Come saprà, tutte le leggi microscopiche della meccanica classica sono reversibili nel tempo. Prendiamo come esempio un gas, supponendo che sia composto da piccole sfere che urtano elasticamente secondo le leggi della meccanica. Prendiamo una qualsiasi configurazione iniziale delle particelle e delle loro velocità. Applicando le leggi di Newton, possiamo calcolare la loro posizione e velocità dopo un certo intervallo di tempo. Se a questo punto ribaltiamo tutte le velocità e facciamo evolvere il sistema per un intervallo di tempo uguale al precedente, e quindi ribaltiamo di nuovo le velocità, torniamo alla configurazione di partenza. Come, ad esempio, vedere un film proiettato prima nel senso giusto e poi alla rovescia? Esatto, vedo che mi sta seguendo. Ora, il risultato prima descritto avviene anche se uso particelle diverse dalle sfere e se queste interagiscono con forze qualsiasi. Questo perché appunto le leggi del moto sono reversibili nel tempo. Ma il mondo come lo conosciamo non funziona così, i piatti che cadono dal tavolo si rompono e non vediamo mai frammenti ricomporsi, il fumo di una stufa si disperde e non lo si vede mai ritornare nella stufa e ricomporre un tronco di legno, le stelle e le persone nascono, invecchiano e muoiono. Ma la seconda legge della termodinamica dà appunto un senso di percorrenza del tempo. Appunto. La seconda legge della termodinamica ci dice che l'entropia in un sistema chiuso ed isolato aumenta sempre, ovvero che il mondo non è reversibile. È possibile derivare questa legge termodinamica dalle leggi della meccanica? E lei ci è riuscito? Sì e no. Io ho derivato un'equazione che ha preso il mio nome, che determina l'evoluzione della probabilità di trovare delle particelle di un gas in un certo posto e con una certa velocità. L'equazione è difficile da scrivere, ma non molto da spiegare. Dice che la probabilità di trovare appunto una particella in un certo luogo a una certa velocità e a un certo tempo dipende da vari fattori. Si contano quante particelle possono arrivare lì senza fare collisioni, meno quelle che collidono e quindi prendono un'altra velocità o vanno in altri posti, più quelli che collidendo vengono a trovarsi nel posto sotto esame. Fare i calcoli in un caso pratico è molto difficile, ma si può derivare un teorema che dice che esiste una quantità equivalente all'entropia che in media aumenta sempre nel tempo. Pensavo di aver così risolto il problema. E invece? Invece subì molti attacchi che alla fine, complice anche delle malattie, la morte di mio figlio e il mio carattere bipolare, mi portarono al suicidio nel 1905. Il primo attacco arrivò dalla banda degli energetici, Mach e Oswald in primis, che ce l'avevano con me perché utilizzavo il concetto di atomo per fare i miei modelli, mentre loro lo ritenevano una costruzione mentale, indimostrabile, e non volevano che si usasse. Sa, io sono stato definito l'uomo che credeva negli atomi, ma comunque la loro critica era essenzialmente filosofica e quindi non molto importante, come l'idealismo. Io mi sono invece sempre definito un materialista. L'idealismo asserisce che esiste solo l'io e le varie idee, cercando di spiegare la materia a partire da queste. Il materialismo parte dall'esistenza della materia e cerca di spiegare le sensazioni a partire da questa. E le critiche più serie quali erano? Ce n'erano essenzialmente due, dovute a Longschmidt e a Zermelo, due professori di fisica, uno austriaco, mio collega a Vienna, e l'altro tedesco di Friburgo. La critica di Loschmidt, condivisa anche da Kelvin, era basata sul teorema della ricorrenza di Poincaré. Questo grande matematico francese aveva dimostrato che un sistema classico torna sempre nelle vicinanze dello stato iniziale. La faccenda è molto più chiara se pensiamo di poter approssimare un sistema dinamico con un sistema discreto, in cui le posizioni e le velocità possono assumere solo dei valori numerabili. Dato che un numero di configurazioni possibili è finito, prima o poi il sistema tornerà in una configurazione già visitata, e dato che è deterministico non potrà fare a meno di ripercorrere il ciclo di prima. Quindi non ci possono essere quantità come l'entropia che aumentano sempre. Però mi sembra un'obiezione grave. Sì e no. Un sistema fisico è composto da tantissime particelle e lo spazio delle configurazioni è immenso. Se si fanno i calcoli si vede che il tempo medio per ritornare a uno stato vicino a quello iniziale è molto, molto più grande della nascita dell'universo. Diciamo che ci si può accontentare se l'entropia aumenta anche solo per un tempo limitato. Allora l'obiezione di Zermelo è quella più grave. Sì, giusto. Zermelo fece vedere che si può formulare il problema del moto con un formalismo simile a quello della fluidodinamica. Pensiamo ad un insieme di configurazioni iniziali molto simili, per esempio con tutto il gas racchiuso in un piccolo spazio. Possiamo assegnare a ogni configurazione possibile un punto in uno spazio speciale, detto spazio delle fasi. Consideriamo l'insieme delle configurazioni iniziali vicine come se fosse inizialmente una piccola sfera in questo spazio. Durante l'evoluzione dei vari sistemi, quella sfera iniziale diffonderà come se fosse una goccia di inchiostro nell'acqua. Ma come gli atomi di inchiostro non si distruggono né si creano, così il numero dei punti non cambierà, dato che l'evoluzione deterministica è irreversibile e quindi due punti non possono fondersi né un punto può dividersi. Dato che si può dimostrare che l'entropia è legata al numero dei punti, otteniamo che l'entropia non cambia nel tempo. Ma l'entropia aumenta. Avrei dovuto aspettare Gibbs, che risolse il problema poco dopo il mio suicidio. Il fatto è che non esiste una precisione infinita nelle misure fisiche, anche senza considerare l'indeterminazione quantistica. Quindi, in effetti, i punti vicini nello spazio delle fasi non si possono distinguere. E se si inserisce questo ingrediente, si ottiene l'aumento dell'entropia. Ovvero, l'entropia riflette la nostra ignoranza dello stato iniziale, ignoranza che diffonde nello spazio delle fasi. Ma Gibbs arrivò troppo tardi per me. Mi consolo con il fatto che alla fine hanno dato essenzialmente ragione a me e che sulla mia tomba è incisa la mia formula più famosa, S uguale K che moltiplica il logaritmo di W, che collega l'entropia S al volume nello spazio delle fasi W. Accidenti! Un vero e proprio giallo scientifico! Direi che si è ben meritato un invito a cena. Sa, come ho raccontato nel riassunto del mio viaggio in America nel 1899, viaggio di un professore tedesco all'Eldorado, bisogna sempre prendersi cura del proprio fisico, con passi regolari, buoni ed abbondanti, innaffiati da del buon vino, cosa non sempre facile in America. Non le piaceva il cibo americano? Il cibo è un'avventura, ma il problema principale è la loro fobia dell'alcol. Ricordo l'invito a pranzo da parte di Miss Phoebe Hearst, grande donna, femminista e benefattrice dell'Università di Berkeley, dove in effetti ci sono donne e uomini in ugual numero tra gli studenti. Per cominciare mi parlano dell'architetto dell'azienda di Mr. Est, Schweinfurt, che traducendo letteralmente beve vino fino alla morte, e anche di me possono dire la stessa cosa. A tavola il pranzo cominciò con delle more, che rifiutai, e del melone salato personalmente da Mr. Est, che pure rifiutai. Dopodiché arrivò la pappa di avena, che pure tentai di rifiutare, ma che dovetti ingollare sotto lo sguardo severo della padrona di casa. Non so se conoscete questo piatto americano. Avena lo potrebbe usare solo per ingrassare le oche, anche se dubito che un'oca viennese lo vorrebbe assaggiare. Per fortuna poi arrivarono altre cose commestibili, ma sempre senza vino, come del resto succedeva per tutti i pasti a Berkeley. Alla fine però un collega mi rivelò, guardandosi intorno per poter essere scoperto, dove si poteva comprare vino a Oakland, e così il mio soggiorno californiano diventò molto più piacevole. Un racconto affascinante. Potrei andare avanti per ore, ma mi sembra che sia l'ora di pranzo. Ha ragione, salutiamo quindi i nostri ascoltatori e procediamo verso il ristorante più vicino. Aus Wiedersehen. Avete ascoltato una puntata delle interviste impossibili ai fisici del passato, una rubrica della trasmissione Radio Moca di Franco Bagnoli e Giovanna Pacini, in onda su Nova Radio. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Centro per lo Studio di Dinamiche Complesse dell'Università di Firenze. I testi sono stati pubblicati da Apice Libri e sono accessibili su caffescienza.it.